sera, un bacio a mezzanotte. Bello, bello, coro mio, bella mia. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Com'è questo microfono? Bello, bello, pulito è, bello, pulito è. Ui, ui, andave, andave, già in te casino, mi di nobbio, ma ti maledisco, mi già mi liso. È forte già, è pulita? Sì, sì, è bella chiara, è forte, forte, diciamo, nel senso, è bella, è bella. Yes, andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Va bene, va bene, va bene. Ti mando la foto, ti mando la foto, pari una... È presente quei microfoni dei supermercati che usano le cassiere per chiamare il reparto? Questo è uno di quelli. Me l'hanno regalato avanti ieri, e... infatti mi ha detto, mi guarda cosa ti do a te che sei appassionato, te lo faccio, perché ho fatto una cortesia, ho riparato una, diciamo, un diffusore, e mi ha detto quanto ti devo dare, mi ha detto ma mi interessa, te lo faccio così in fretta, in furia, portalo dove sono io e ti riparo, te lo smonto e ti faccio, gli ho fatto una riparazione da una cassa, dai. E mi ha detto allora quando sei a casa fai uno squillo e ti scendo la cosa. Infatti mi ha fatto uno squilletto, dimmi cosa è. Mi guarda cosa mi ha detto, vieni, scendi al cancello, mi ha portato il microfono, ha detto guarda cosa ti do, e mi ha regalato questo microfono, mi ha detto tu che sei appassionato, ti infatti ho detto porca miseria, questo è bello, è un microfono a condensatore, è un microfono a condensatore e niente, dovrebbe essere pulito, l'ho alimentato a 48 volt, da... ed è indipendente, ha un'amplificazione che fa paura. No, è bello, è pulito, liscio, è un bel reale, come si qua a fianco a me, Puzzardo, a vasti di mondo, fate canto. No, è un bel togo, andava, è bello, pulito, è. Sì. Sì. E già questi sono quei microfoni che facevano un tempo già. Microfoni anche da convegno, da conferenza e... sono di quei microfoni belli. Sono di quei microfoni belli, belli, belli. Hanno una capsula fenomenale. Che per la FM è fantastico, fantastico. E va bene, va bene. Comunque, sì, è così. Capitano si è incasinato un paio di bubù. E vabbè, dai. Bisogna portare a casa la pagnotta, casinono, asugajo, guai. L'importante è prima pensare a, come si dice prima, al dovere. La famiglia che è importante e poi già viene piano piano tutto il resto. Stavo dicendo, nel tunnel gli avevo messo la batteria nuova, però non lo so così, è una batteria buona quella lì, nel senso l'ho presa dalla scatola e non lo so. Va bene, dai, già tanto quando arrivano questi settini lì lo potrò fare anche con... così a vedere se hanno aperto su questo. E qua, l'ho messo dentro una scatola, ho trovato una scatola che stava dentro e l'ho messo per non lasciarlo all'aria aperta. Gli ho tolto la batteria e va bene. E già, sono batterie che devi prendere, ogni tanto devi cambiare. Ma è carica, è 9 volt, tanto è idratata, nuda. Niente. E qua dentro la scatola per non lasciarlo all'aria aperta, così come saliamo con la bobinetta lo proviamo bene, va bene, va bene, va bene. E così. È bella azzurrata oggi, c'è un po' di vento, però c'è una bella giornata. C'è una bella giornata. Ma ne regalato un vino ruglio, rimani bello, bello, bello, ne ho assaggiato appena appena ieri notte quando sono rientrato. Un bicchiere. Già, fantastico. Vino, vino di Valleduria, vino di Valleduria, buono, buono, buono, buono, Lo fanno buono, anche lì lo fanno buono il vino. Già vedene ne ha fatto i gorgioni. Già ci sta, un bicchiere di vino ai pasti e a cena, già ci sta. E andava in cucina. Franco, non lo so dove sono. E io stavo a entrare a me, fa una mezz'oretta, come sta frusciare, lascia lì. Era... Deve essere stava provando qualche microfono, non lo so cosa avvenne. E gli dico, brecco, brecco, ma pecore ci sono in zona io. E gli dico, abbasciami le mosse. E gli dico, ma oggi brodo mangiamo. E gli dico, no, no, non so, no. Le risate che mi fa di voglia, danza. E dove si offende, l'ubigio urbano? E non lo so, da lui sta di... Sai com'è lui sta di... prova... Sampe, ci sei, Gavino, Gavino, ci ha mandato tutti. Magari sono qua, no, magari mi sto mettendo il mangime agli uccellini. Mi giro, schiaccio la porta anche le volte. Allora, allora, tutto a posto, ma pucravi, varati nei soldi a un cammino di carriera tua. Allora, allora. Purtroppo, purtroppo, già. Io che non era piazza duce in radio, tutta tanta la via, non fa nulla, però purtroppo bisogna tribulare. Bisogna tribulare. E adesso devo anche prendere e iniziare a pulire di nuovo qua, qua in campagna, che scende la gramigna. A febbraio, verruvo la sacco, non l'ho compreso. Non ho compreso che c'è un tempo tifoso, a febbraio lo vola a sacco, capita, poi arrivi a luglio, agosto, tutto secco, tutto secco. Mi arrivi dalla la bolletta, mi è arrivata anche la bolletta del consorzio e non va via mia Eva. E non avevamo ancora Eva. E cosa mi serve di pagare la bolletta se non va geloso di vino? Biada Ed, biada Ed davvero, mi so usi. Vedo abbiglia e strangurarli, davvero, vedo abbiglia e strangurarli. Ho già, mi fumo una sigaretta un attimino, che stamattina mi rilasso un po'. Mi fumo una sigaretta e poi riprendo. Eia, eia, vai tranquillo, vai tranquillo. Per intanto il tempo se comincia da adesso così, ui ui, a casare dove sì. E niente, io sto aspettando stesso che mi colleghino l'acqua in campagna perché era attaccata per dei lavori ed è quella grezza e niente, poi sto aspettando il portatore perché mi deve fare 30 alberi di olivo che mi mancavano e poi così Davide gli chiude una bastarda di trattori o di brincia ed è a posto là e andava e là io mi devo pulire una volta perché adesso una volta che faccio questa volta qui e poi già rimane metà basata, compreso. Adesso c'è la gramigna che è in fiore, quindi una volta che lo taglia dice spugliatore adesso lo faccio proprio a rasente rasente e poi gli passo il rasaerba è da biglia e rimani già, diciamo si secca in chivi e non fa dei grisci da tutta l'erba infettante quella brutta che c'è stato. Perché poi io ho tutti gli irrigatori, mi seguo. Io ho tutti gli irrigatori, l'attacco all'acqua del consorzio e una volta al giorno l'attacco per mezz'ora e diventa tutto verde, non cresce gramigna, poi io una volta al mese gli passo il raserba, tutto e rimane bello per i cani, perché, e poi anche per noi, perché quando faccio la torre da Ribara o le due giorni liberi, e un figlio e mi dice che in casa mi rimango fuori e me ne sto per affari miei, non voglio essere non voglio essere disturbato, compreso. Mi faccio tipo un salottino, ho tutte quante le robe, e mi pongo i chivi, e mi piglio l'usore, mi piglio l'ombra, le praticanti e queste cose qua. E va bene, e va bene. Mi posso decidere un miti a voi, sì. Perché poi, dopo che pulisco, metto le mie vicine per le zanzare, come smettono le piogge, quindi faccio, prendo due bidoni da 5 litri, due bidoni da, due cose da litro di quella medicina, a uso professionale, e la diluisco, ne faccio 5 litri da un litro, e inizio da, diciamo, dai bordi e tutto, torno a casa, e non si intende, non si vede il dito, eh? Ci non fa zeva, dura vinta la olio. Se a voi va zeva, devo durare la data, però la studio, riprendo subito. E gli agappa, così ne approfitto a questo sistema di vicini. A dopo.